Io l'ho visto cadere il tuo regno, ho visto la grandine sul tuo disegno, indossando completo da indegno, adesso lo vendo tutto il mio impegno. Aspettavi il tuo segno e ci sono, è l'attimo buono ma non te lo dono. Hai cercato la nota in cui sono, ma adesso ti sbrano come il dio Crono. Bevo il mio sangue che sgorga, aspetto l'odio dal cuore che insorga. L'amore m'ha ucciso dormendo, ancora un momento e stavo vivendo. Eccolo il voto che arriva, vieni a riempire tutta la stiva. La mia carcassa è ancora viva, ti amo di brutto e ti vedo cattiva. Muto la pelle del corpo, vedo un presagio nel volo di un corvo. Sulla tua foto ci ammazzo un ricordo, con il tuo odore ci soffoco il sordo. Pensavo che fossimo eterni, a lui ci strapperei gli organi interni. Ora sono un campione a pensarti seduta tra i giochi dei bimbi a drogarti. Cucio ferite all'inferno, con i tuoi baci rinchiusi all'interno. Aspetto il veleno che faccia il suo effetto, e dopo risorgo per farti un dispetto. Ormai 9 mesi a pensare a come sto vuoto si possa colmare. Ma un obiettivo lo viene a rubare, tu dolce come l'acqua del mare. Il tempo non cura, non è un palliativo, ma sotto una S è scritta in corsivo. Scava l'emozione e la disputa, spingi la mia mente a darti della puta. Ho bisogno di te, di quello che c'è, di scala 40, una bomba con te. Sono qui e sto per uscire pazzo, ho bisogno di sesso, un poltrone in terrazzo. Il tempo non cura, non è un palliativo, ho sotto una S è scritta in corsivo. Scava l'emozione e la disputa, spingi la mia mente a darti della puta. Ho bisogno di te, di quello che c'è, di scala 40, una bomba con te. Sono qui e sto per uscire pazzo, ho bisogno di sesso, un poltrone in terrazzo.